Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Oggi a Destini Incrociati siamo sul ring del film sulla box più famoso della storia del cinema, Toro Scatenato. Agli angoli, le due persone che lo hanno realizzato contro tutto e tutti, Martin Scorsese e Thelma Schoonmaker. Primi anni 50, Aruba, Antille olandesi. Thelma Schoonmaker ha 10 anni e come ogni giorno torna a casa da scuola facendosi strada con testa dritta e sguardo fiero tra la folla del mercato di Orangstad, la capitale dell'isola. Il vento soffia caldo, le onde devono essere alte e bellissime, ma Thelma non andrà a giocare coi compagni. Sono giorni che preferisce tornare a casa, nella villetta in stile olandese della periferia Bene, dove abita con i genitori che da sempre girano il mondo per conto di una compagnia petrolifera. Il salotto è pieno di conchiglie e ricordi dell'Algeria, dove Thelma è nata, ma che ha abbandonato a 4 anni allo scoppio della guerra franco-algerina. Thelma saluta la governante di colore e accende il televisore. Come ogni pomeriggio, il canale di Stato trasmette il ciclo Million Dollar Film, pellicole straniere che nell'unico cinematografo di Orangstad non si vedrebbero mai. I titoli di testa annunciano Scarpette rosse di Michael Powell e Emmerich Pressburger, due registi inglesi che si sono ispirati alla fiaba di Hans Christian Andersen. Mia madre rientrava a casa alle 5 del pomeriggio e la prima cosa che faceva era controllare se il televisore era ancora caldo. Ovviamente mi rimproverava sempre perché avrei dovuto fare i compiti anziché guardare il film, ma non importava. Non sapevo assolutamente come si realizzasse un film, ma non dimenticherò mai quanto mi emozionò Scarpette rosse. Il film ha uno stile unico e selvaggio e racconta l'energia e la vertigine della danza come fosse un'opera surrealista. Ma a far vibrare Thelma è Vicky Page, la protagonista che, posseduta dal demone dell'arte, rinuncia alla vita di moglie e madre pur di danzare. Perché vuole ballare? Lei perché vuole vivere? Oh, neanch'io so perché, ma lo devo. È anche la mia risposta. New York, 1958. Thelma ha 18 anni, da 3 è tornata coi genitori negli Stati Uniti, ma l'impatto con quella cultura che vuole ancora la donna incorniciata in una smagliante villetta di periferia alle prese con cocktail ed elettrodomestici all'ultimo grido la disgusta. Come Vicky, Thelma ha fame di esperienze e di indipendenza. Entra alla Cornell University decisa a diventare un diplomatico e a girare il mondo e si appassiona alle lezioni di un docente molto chiacchierato, Vladimir Nabokov, l'autore di Lolita. Le sue lezioni erano magnifiche. Era un uomo eccentrico e molto amato. Lo Sputnik era appena stato lanciato nello spazio e c'era molto interesse e timore per la Russia come nuova grande potenza contro gli Stati Uniti. Sono anni intensi per un attivista come Thelma. La morte di JFK e la dichiarazione di guerra degli Stati Uniti al Vietnam fanno nascere i primi dubbi sulle sue ambizioni politiche. Ho fatto gli esami al Dipartimento di Stato, li ho passati tutti fino all'ultimo, che era una prova di destabilizzazione. Veniva ricreato un ricevimento in Sudafrica e io non riuscii a non dire quanto fosse sbagliato l'apartheid. E il mio tutor continuava a riprendermi, dicendo: non puoi dirlo, devi aspettare che lo Stato ti dica che lo puoi dire. Da lì ho capito che la politica non faceva per me. Sempre coerente, sempre coraggiosa, Thelma comincia a frequentare i corsi d'arte primitiva della Columbia University e per arrotondare spulcia le inserzioni di lavoro del Times. Sottolinea con un pennarello rosso un annuncio in particolare. Cercavano un assistente montatore, che è una cosa strana, visto che di solito i montatori lavorano grazie al passaparola. Insomma, risposi all'annuncio tutta contenta e invece scoprì che era un trucco. Si trattava di macellare i film di Antonioni e Truffaut da trasmettere all'1 del mattino per farcirli di spot pubblicitari. È stato terribile. In quegli anni le sale newyorkesi vengono invase dai film della Nouvelle Vague francese, decisa a rompere gli schemi del cinema hollywoodiano. La macchina da presa non è più fissa, ma si aggrappa agli attori. L'inquadratura cambia d'improvviso grazie a un montaggio frenetico che rompe i freddi canoni stilistici del cinema tradizionale. Thelma passa interi pomeriggi in moviola e, guardando e sforbiciando, si convince a iscriversi a un corso estivo di cinema alla New York University. Fa caldissimo in quell'estate del 65. I carri armati sono arrivati a Saigon. Le bombe cominciano a brillare nella foresta vietnamita. Ma la gente a Central Park in cerca di fresco canticchia Sugar Pie Honey Bunch e non fa troppo caso agli studenti del corso di cinema che girano nel parco alcune scene dal vero. Noi studenti eravamo divisi in vari team e dovevamo produrre 10 minuti di film. Grazie alla mia piccola esperienza terminai di montare il film senza problemi, ma poi il mio professore mi fece una proposta. Il professore Haig Manoogian sigilla una sigaretta tra le labbra e offre una tazza di caffè a Thelma. Caffè forte, nero, come quello che bevono i veri montatori nelle loro fumosissime cabine di montaggio. Se vuoi fare il montatore, ragazza, ti ci devi abituare. E se vuoi, comincia subito dando una mano a quel poveretto. Il poveretto in questione è il regista di un altro team, uno che ha sputato sangue per girare il film della sua vita e che si è visto distruggere quasi tutto il materiale da un montatore dalle forbici troppo facili. Sì, perché nel 1965 il montaggio è questione di stile, ma anche di forbici, nastro adesivo, sigarette e caffè. La sera stessa Thelma bussa alla cabina di montaggio dove il regista sta controllando disperatamente la pellicola scampata al massacro. Lui sembra un ragazzino, i capelli sporchi sciolti sulle spalle, gli occhi lucidi. Thelma si siede alla moviola, si scambiano un'occhiata e fa partire il rullo di pellicola. Thelma esamina il materiale girato, attraversata dai fantasmi di luce che brillano dallo schermo. Poi ferma il rullo e muove la manopola all'indietro senza curarsi delle unghie. Le ha tagliate corte apposta. Le immagini scorrono avanti e indietro, accompagnate dal gracchiare distorto del sonoro. Il film è in stile Nouvelle Vague, il titolo è chilometrico. Cosa ci fa una ragazza come te in un posto come questo? E il giovane regista se lo sta proprio chiedendo, mentre osserva Thelma alla moviola. Il film racconta la vita di strada a Little Italy, violenta e disperata, e lui, con un filo di voce, le confessa che si tratta di una storia autobiografica. Thelma è stupita dalla confidenza del ragazzo, ma non lo dà a vedere e gli consiglia di spostare quella scena più avanti per rendere la storia più scorrevole. Lui alza le spalle, svegliandosi dal suo torpore, e capisce che quella ragazzotta dagli occhi nocciola sa il fatto suo. Strappa la mano da lei dalla moviola, le offre una sigaretta come si fa con un vero montatore e si presenta. Si chiama Martin Scorsese. Martin Scorsese. Marty ha cambiato completamente la mia vita. Voglio dire, se non l'avessi incontrato, non avrei continuato con il cinema. E pensare che al corso non eravamo nemmeno nella stessa squadra. Era destino. Lui mi ha aperto un nuovo mondo. Alla fine dell'estate, salutati i compagni di corso, Scorsese invita Thelma a cena e gli presenta l'amico Harvey Keitel, che con un sorrisetto animale le chiede se ha impegni per i prossimi mesi. Forse Thelma pensa a un'assurda proposta di matrimonio e si limita a rispondere che li passerà a mutilare senza senso i film di Truffaut per una TV privata. «Perché non provi a dar senso al nostro film?» dice Harvey. Grazie al professor Manoogian, lo stesso che li ha fatti incontrare, Martin ha trovato i soldi per girare il loro primo vero film. Si intitolerà «Chi sta bussando alla mia porta?». «Sono io», ride Harvey, che ora beve un altro whisky mentre batte le nocche sul tavolo. Le riprese durarono anni, con molti intervalli nei quali cercavo altri soldi per andare avanti. Quando li trovavo, la prima cosa era richiamare Harvey Keitel, che andava sempre su tutte le furie. Lavorava come stenografo ai processi e diceva che gli facevamo perdere sempre un sacco di tempo. In cabina di montaggio, Martin e Thelma diventano una cosa sola. Il film è l'obiettivo, ma la loro vita quotidiana, il divorzio di Martin, il matrimonio di Thelma, le loro confessioni, sussurrate tra una scena e l'altra, diventano lo stile e il sangue del film. Un film sempre più autobiografico e importante. È la strada a ossessionare Martin, il marciapiede lurido di mozziconi e tracce di sesso, le urla del bar dove stanno accoltellando un barbone con le prostitute imbrattate di rosso che fanno il tifo, mentre un prete spranga la porta della chiesa. È la Bowery Street, col gracchiare della sua sopraelevata, e Little Italy, dove di giorno si prega e di notte ci si ammazza, dove Scorsese è nato e ha visto tutto. Le recensioni sono buone, ma il film è troppo realistico per il pubblico e così Scorsese, ormai senza un dollaro, è costretto ad accettare qualsiasi lavoro pur di restare nell'ambiente. Così non ha problemi a improvvisarsi montatore per il documentario di cui tutti parlano in quel periodo, Woodstock. Secondo voi ci sarà il nudismo generale? Prima o poi, per forza. Per forza. Doveva vedere la strada da cui arrivano tutti. È ancora il primo giorno, ma è uno spettacolo. Tutti parlano liberamente. Tutti sono mezzi nudi. I tre giorni più importanti del rock e della cultura hippie vengono consegnati ai posteri dalle macchine da presa di un altro studente del corso, Michael Wedwick, deciso a ridare l'intensità, la verità dell'evento. Ma la cosa più eccezionale è che nella squadra non solo Scorsese ritrova Thelma, ma scopre che è anche il suo capo. Ritornano a lavorare con passione, sperimentando artifici tecnici come fermi immagini e sovrimpressioni, che all'uscita del film creano entusiasmo e sensazione nel pubblico, tanto che Woodstock viene candidato all'Oscar per il miglior montaggio. Perché non mi dici qualcosa di interessante? Non riesco a parlare davanti a quel microfono. Non guardarlo, non farti impressionare, è soltanto un microfono. Lo so, ma invece mi paralizza. È l'inizio di qualcosa di meraviglioso e di nuovo per Martin e Thelma. Non più solo amici, ma professionisti del cinema con un invito a lettere d'oro per gli Academy Awards. Sembra un sogno, ma poi, come in Scarpette Rosse, capita qualcosa di inaspettato che sembra mettere la parola fine alla loro carriera. Scopriremo cosa tra poco, a Destini Incrociati. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift. Destini incrociati. Nel 1966 Martin Scorsese ha diretto Chi sta bussando alla mia porta, un film semi-autobiografico che non gli ha dato fortuna, ma gli ha fatto capire che non può più fare a meno della sua montatrice, Thelma Schoonmaker. Decisa e ribelle, Thelma è scappata dalla carriera diplomatica e dagli scantinati di una TV locale per seguire il suo sogno. Raccontare storie che possano aprire gli occhi al pubblico americano, cloroformizzato dalle convenzioni sociali e dal perbenismo. Forse fare il montatore allora non è così diverso dalla politica come la sognava lei. Forse Thelma ha trovato la sua arte, la sua ragione di vita, come il personaggio del suo film preferito, la Vicky di Scarpette Rosse. Con Woodstock, che con le sue invenzioni ha rivoluzionato l'estetica del film concerto, Thelma riceve una nomination agli Oscar che sembra proiettarla verso Hollywood. Ma qualcosa si mette tra lei e il suo sogno. Una pura formalità. Quando Thelma va in cerca di lavoro, nessun produttore le dà ascolto. Una donna in un ruolo così fondamentale come il montaggio. È così che spesso si salva un film scritto male e girato peggio, e i produttori sanno che nel cinema hollywoodiano sono la maggior parte. E allora come possono fidarsi di una ragazza bruttina e rotondetta che non fuma come una ciminiera e non beve 2 litri di caffè al giorno? No matter which side of the pillow that... Scorsese allora, sempre alla ricerca di fondi per girare nuovi film, convince Thelma ad andare a bussare alla porta di Roger Corman, il produttore indipendente più importante di Hollywood. All'epoca il miglior apprendistato che si poteva fare in America dopo la laurea era lavorare con Roger Corman. Scaltro e simpatico, incorniciato tra le decine di locandine dei film che ha girato per i drive-in, pieni di mostri e ragazze in bikini, Corman squadra Thelma da capo a piedi. Forse pensa che potrebbe essere una buona caratterista, una di quelle ragazze non troppo avvenenti che negli horror muoiono subito, ma lei vuole fare la montatrice. Corman non ha pregiudizi sessisti. In modo molto democratico, se uno lavora bene e costa poco, già fa parte della squadra. Ma quando arrivano al sodo, emerge un nuovo problema. Thelma non è iscritta al sindacato. Negli Stati Uniti, i sindacati dello spettacolo sono dotati di un rigido regolamento e sono in grado di creare scioperi che possono mettere in ginocchio Hollywood per mesi, come è capitato nel 2008 per quello degli sceneggiatori. Negli anni 70 le norme erano ancora più severe. Chi voleva iscriversi al sindacato come montatore poteva farlo solo dopo aver svolto il ruolo di aiuto per 8 anni. Ma Thelma non ci sta. Ha già avuto una nomination agli Oscar. Il sindacato non può pretendere che lei passi altri 8 preziosi anni alle dipendenze di un uomo che molto probabilmente ne sa meno di lei e la bistratterà per il solo fatto di essere una donna. Come la Vicky di Scarpette Rosse, Thelma ha scelto l'arte anziché la vita e non può permettere che qualcuno gliela porti via. Ma alla fine, quando tutte le porte vengono chiuse in faccia, è costretta a voltare le spalle. Sono anni di oblio, nei quali Scorsese fa di tutto per convincerla a battersi, visti anche i nuovi obiettivi raggiunti dal movimento femminista. Ma Thelma preferisce viaggiare per il mondo, sognando un futuro lontano dagli Stati Uniti, e trova anche il tempo di sposarsi per la seconda volta. Non che duri molto. Ha da poco firmato l'istanza di divorzio, barrando la casella «divergenze inconciliabili», quando si presenta elegantissima alla premiere del film fino allora più importante di Martin, «Taxi Driver». Da quando Thelma ha smesso di lavorare, Martin ha realizzato alcuni film che l'hanno fatto notare anche in Europa, come Alice non abita più qui e Main Streets. Ma è Taxi Driver, potente, disperato, innovativo, a creare il mito Scorsese. Ma dici a me? Ma dici a me? Ma dici a me? E con chi stai parlando? Dici a me? Non ci sono che io qui. Ma con chi credi di parlare tu? Come nelle Memorie del sottosuolo di Dostoevsky, la poesia di Scorsese è scritta nei fumi dei vicoli di Little Italy, nel cemento in cui affonda New York, nuovo, labirintico girone infernale. Nel mio quartiere la paura era eretta sistema di vita. Dentro il nostro caseggiato, un piccolo ghetto, un enclave, si stava sicuri. Ma bastava attraversare la strada e girare l'angolo che il fuori era là. E là ho visto tutto. L'ubriaco che picchia il più ubriaco, l'atto sessuale consumato per strada, anche tra uomini. Tutto questo per un bambino di 8 anni è terrorizzante e certamente qualcosa dentro di indelebile ti resta. Il riflesso più naturale di un bambino di fronte a quell'orrore è scappare. Ma io avevo l'asma e non potendo correre mi sono messo a guardare e ho imparato a vedere. I nonni di Martin sono di Cimmino e parlano ancora il dialetto caldo e indolente della Sicilia più profonda. Il nonno Martino fu abbandonato in fasce sulle scale di un convento e fin da quando è emigrato a Nuova York, in siciliano, ha voluto tenere stretta a sé la sua grande famiglia. Ma abitano a Little Italy, un quartiere dove ci sono solo 2 possibilità. Fare il prete, e il giovane Martin ci prova ma viene espulso quando una suora lo scopre mentre bacia una compagna, oppure diventare un gangster. Ma anche per questo Marty, il timido, non ha proprio il fisico. L'unica sua consolazione è la musica. Love me, love me, love. Sono cresciuto ascoltando jazz per le strade. Mi ricordo i vinili da 78 giri che aveva mio padre negli anni 40. Erano splendidi. Adesso che ci penso, ora che indosso gli occhiali e che mi sono rasato la barba, gli assomiglio molto. Ecco, le immagini mi arrivano dalla musica. Forse perché la musica proviene totalmente dalla nostra anima. Martin prova a suonare la chitarra, ma non ha stoffa. E allora si chiude nei cinema di terza visione divorando pacchetti di Bonomo, Starkish, Teffi al cioccolato e i film di Fellini, Visconti e Mario Bava. Anche quando diventa un regista professionista, Scorsese è un autentico onnivoro, riconosce la bellezza, bandisce ogni etichetta e ha un amore sfrenato per il cinema italiano, il più lirico, il più vero. Ed è la verità e la forza del cinema di Luchino Visconti e di Rocco e i suoi fratelli in particolare a ispirarlo per la sua nuova difficilissima impresa, Toro Scatenato. Nel 1978 Scorsese finisce in ospedale per motivi mai ben chiariti. Certo è che il suo ultimo film New York, New York, un colossal in stile vecchio Hollywood, con Robert De Niro e Liza Minnelli, è stato un flop inaspettato e che, come dirà lui stesso, era iniziato il mio periodo suicida. Sono giorni di angoscia. In ospedale Scorsese lotta tra la vita e la morte. È il weekend del 1° maggio del 1978 quando riapre gli occhi. Mette a fuoco la stanza dell'ospedale, il viso di un'infermiera che cerca di calmarlo. Solo allora nota che ha le mani sul volto come a volersi difendere. La lampadina lo acceca prima in un occhio e poi nell'altro. Il medico mette via la pila, gli ordina un ricostituente e con un sorriso molto professionale gli dice «Bentornato». Martin si accarezza il mento, sgranando i peli ispidi della barba. Deve aver dormito per molti giorni, eppure non si ricorda niente. Anzi no, qualcosa si ricorda, che tutto è finito per lui. Il cinema, la giovinezza, perfino il suo ultimo matrimonio. Ora vuole solo dormire. Non ci riesce. Quei frammenti di immagini veloci e quasi surreali lo tormentano. No, forse un senso ce l'hanno, ma come metterli insieme? Mentre fuori i lavoratori festeggiano per le strade, Martin si fa portare un telefono. Deve chiamare Robert De Niro perché gli è appena venuta in mente l'idea di un film diverso da qualsiasi altro. Già 5 anni prima Robert De Niro mi aveva detto di leggere l'autobiografia di Jake LaMotta, ma all'epoca non gli diedi peso. Poi me lo ricordai improvvisamente e cominciai subito a pensare al film. Misi tutto quello che ero e provavo in quel momento. Tutta la mia energia e la mia rabbia. Ero convinto di essere arrivato alla fine della mia carriera. La Motta, originario di Messina, è un pugile alle prime armi quando mette al tappeto il grande Sugar Ray Robinson. I giornali lo chiamano Toro Scatenato e la lista di 83 vittorie, di cui 30 KO, non fanno che confermarlo. Ben presto però la sua vita fatta di eccessi, legami mafiosi e ossessioni private finisce per oscurare la sua stella. Ma Scorsese non è interessato a girare una semplice biografia. Quello sarà un film mai visto, andrà oltre ogni limite. Il pubblico dovrà vivere davvero l'esperienza del combattimento abbattendo le barriere del realismo. Più vero di Rocco e i suoi fratelli, più vero del vero, dovesse essere l'ultima cosa che fa. Ma per farlo, per realizzare con assoluta libertà quello che sarà il suo ultimo film, ha bisogno di un'unica persona, Thelma Schoonmaker. Come riuscirà Martin Scorsese a convincere Thelma Schoonmaker a tornare a lavorare nel cinema? Ve lo racconteremo tra poco, a Destini Incrociati. On the turning away from the pale and downtrodden and the words they say which we won't understand. Don't accept that what's happening is just a case of all the suffering. Destini incrociati. Nel 1978 Martin Scorsese combatte contro una grave forma di depressione. Solo il cinema può aiutarlo a sopravvivere e pensa che Toro Scatenato, la storia di Jake LaMotta, un grande pugile vittima delle sue stesse ossessioni, possa riuscirci, almeno per l'ultima volta. Girare non lo spaventa, ma ha bisogno di un grande montatore per raggiungere davvero il forsennato realismo che ha in mente di ottenere. E per questo ha bisogno di un'unica persona, Thelma Schoonmaker. Negli ultimi anni Thelma ha viaggiato molto, si è dedicata all'arte e ha 2 matrimoni finiti male. Ha detto addio al cinema, ma non l'ha dimenticato. Ha divorato i grandi film del passato e imparato tutti i segreti delle avanguardie europee. Ma qualcosa le manca. Una sfida. Quando Scorsese la chiama per parlare di Toro Scatenato, lei si fa negare, poi tergiversa. Martin è un vecchio amico e lo ama profondamente, ma il cinema l'ha già rifiutato una volta e non vuole ripetere l'esperienza. In più c'è sempre il solito problema. Per lavorare al film deve iscriversi al sindacato, ma senza quegli 8 anni di schiavitù come assistente non è possibile. Come risolvere il problema? Thelma e Martin ne parlano a cena a casa di lui. È una piacevole rimpatriata che culmina in un dessert francese e in una strana rassicurazione. Ci ha pensato Al Pacino. Thelma pensa a uno scherzo, ma quando il giorno dopo va al sindacato scopre che è tutto vero. Il nome Schoonmaker svetta sul registro. Pacino, vecchio amico di Martin, è riuscito ad aggirare le regole e a farla iscrivere. Ma come? Al non l'ha mai rivelato a nessuno e oggi nemmeno lei l'ha scoperto. Risolto misteriosamente il problema, accettando quello che sembra un segno del destino, Thelma non può che accettare la sfida. Signore e signori, buonasera. Benvenuti al Madison Square Garden. Questo è l'incontro clou della serata. La discesa agli inferi di Jake LaMotta si apre dopo il famoso KO a Cleveland che distruggerà la sua carriera. Il film è un tour de force narrativo ed estetico senza precedenti. Pugni, sangue, violenza, niente musica, innovativi effetti sonori e un meraviglioso bianco e nero che sembrano la versione moderna di un'opera lirica. Sono il più forte. Le riprese sono durissime. Scorsese gira e rigira per mesi, attirandosi le ire della casa di produzione che vuole controllare almeno il montaggio. Scorsese non ci sta. Toro Scatenato sarà il suo ultimo film e non vuole scendere a compromessi sul suo stile. Organizza una cabina di montaggio nel suo appartamento nel Bronx per sé e per Thelma. E il match, quello vero, ha inizio. Martin non ama girare, il montaggio è la fase che preferisce. Per Toro Scatenato aveva in mente uno stile lirico e potente fin dall'inizio. Voleva che tutte le inquadrature dei combattimenti fossero diverse l'una dall'altra e per questo aveva disegnato uno storyboard precisissimo. Fatti sotto, campione. La lezione della Nouvelle Vague prende nuove forme. La macchina da presa è mobile come un balletto di sangue. Il montaggio taglia e cambia inquadratura con violenza inaudita. Thelma ripensa ai balletti folli di Scarpette Rosse che da bambina la facevano piangere. Sul perimetro insanguinato del ring, il match è vero e appassionato, quasi fosse girato in tre dimensioni, come ricorda il musicista Howard Shore. I film sono fatti in sala di montaggio. Il taglio è fondamentale per il ritmo, il senso del dramma, la narrazione. E Thelma Schoonmaker è la migliore in assoluto. A incrementare il realismo, De Niro si è allenato per mesi prima delle riprese e per calarsi nel decadimento fisico e mentale di La Motta, ossessionato dalla sconfitta di un match e dalla presunta infedeltà della moglie, non ha esitato a ingrassare di 25 kg. Interpreto sempre ruoli molto diversi e farei di tutto per farli funzionare. Quando mi sono preparato per il ruolo insieme alla Motta in persona, lo bersagliavo di domande. Perché facevi questa cosa orribile? Perché hai picchiato tua moglie? E lui mi rispondeva sempre: io non sarei stato in grado di essere così diretto e sincero. Ma che diavolo ti ha finito, eh? Oh, oh, ma che cazzo stai facendo là in mezzo? È un po' lento. Che si deve cazzo stai combinando? Calmo, calmo. Adesso si riprende. È un po' lento, si riprende, sta tranquillo. Forza, Jack, datti un po' da fare, Forza, forza! Non stupisce che De Niro vinca un Oscar come migliore attore e che consegni Toro Scatenato alla storia del cinema. Ma non è l'unico. Anche Thelma si aggiudica la statuetta ed è una rivalsa per se stessa e per tutte le donne. Ho cercato più volte di darlo a Martin, ma lui non vuole. Quando gira, Martin pensa costantemente al montaggio e poi noi montiamo sempre insieme il film. Non capita con tutti i registi. Nonostante incassi solo poco più di quanto è costato e non salvi la casa di produzione, la United Artists, dal fallimento, il film diventa subito un cult. Quello che doveva essere l'ultimo film di Scorsese diventa quello della rinascita. Parlando con Robert del personaggio, ho capito che quello che avevo appena passato, la crisi, il voler uccidersi di lavoro, sognare una morte tragica, Jack LaMotta l'aveva vissuto prima di me. L'avevamo vissuto ognuno a modo suo. L'eredità cattolica, il senso di colpa, la speranza di una redenzione. Beh, forse è esagerato parlare di redenzione. Diciamo, accettare se stessi. Durante le riprese di Toro Scatenato, Haig Manoogian, il professore che ha fatto incontrare Martina e Thelma, muore. Senza di lui, probabilmente Scorsese, il maestro, non esisterebbe. E per questo gli dedica il film, citando la Bibbia nei titoli di coda con la frase: con amore e risoluzione, Marty. È un pomeriggio troppo caldo per New York e Thelma arriva affannata al ristorante sulla Broadway dove ha appuntamento con Martin. Le ha lasciato un messaggio in segreteria, sembrava eccitatissimo. Lo vede al tavolo gesticolante, ipnotizzato da un signore molto più anziano, dall'aria elegante e malinconica, che sta tormentando una fettina di limone in un bicchiere d'acqua. Ma chi sarà? Thelma non si fa intimidire e come la Vicky di Scarpette Rosse irrompe sulla scena con irruenza. Ed è allora che Martin li presenta. Ecco l'uomo che mi ha convinto a girare Toro Scatenato in bianco e nero. E ovviamente aveva ragione. Fu molto emozionante trovarmi di fronte a Michael Powell, il regista di Scarpette Rosse e di altri film che mi avevano fatto amare il cinema e scoprire me stessa. Powell è un regista troppo moderno e raffinato per la sua epoca e la critica l'ha costretto a una pensione forzata. Scorsese lo ha scovato in un paesino della campagna inglese con l'idea di organizzare una retrospettiva dei suoi film a New York e di chiedergli pareri e consigli su Toro Scatenato. Doveva essere questione di giorni e invece, come in una favola, Powell resterà nella grande mela fino alla fine dei suoi giorni. Siamo andati subito a vivere insieme. Poi ho vinto l'Oscar per Toro Scatenato. Ci siamo sposati, sì. È stato un periodo molto fortunato. La nostra unione è stata baciata dalla fortuna. Powell sposa la migliore amica di Martin e insieme ne diventa il padre putativo. L'influenza di film come Scarpette Rosse, Duello a Berlino, su Toro Scatenato, sul modo innovativo di utilizzare il montaggio e la ripresa così realistica da sfiorare il surrealismo, vengono messe in luce da Scorsese stesso. Da quel momento, come se indossassero le scarpette rosse che non possono mai smettere di danzare, Martin e Thelma realizzano decine di film. Da quei bravi ragazzi all'età dell'innocenza, passando per The Departed, che gli regala finalmente il sempre negato Oscar per la migliore regia. Sono tutti capolavori, figli di due artisti indivisibili e affamati di sfide, libertà e indipendenza. Sono Martin Scorsese e Thelma Schoonmaker. Scorsese mi ha cambiato la vita. È l'ultimo amante del cinema. Guarda un film al giorno, ogni giorno, dico davvero. Il sabato e la domenica anche due o tre. Dressed up to do you harm, and I'm here to watch you do. Give her just about a month ago.